Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Erano le 6 del mattino del 31 di dicembre del 1965 e io finalmente, dopo 9 mesi, vedevo per la prima volta il viso di mia mamma e di mio papà. Mi chiamo Anna Maria e sono nata oggi, 47 anni fa, il giorno prima di Capodanno. Mi chiamo Anna Maria, abito in provincia di Brescia, in Franciacorta. Ho quasi 47 anni e sono un informatore scientifico del farmaco. Il giorno in cui non accade quasi mai nulla. Buongiorno a tutti, oggi è il 31 di dicembre del 2012, è l'ultimo giorno dell'anno, non l'unico, se fosse l'unico sarebbe un problema. Forse non lo sapete, ma oggi appunto finisce il 2012, se non ve l'hanno già ancora detto. Ebbene, oggi è il giorno in cui dovete decidere cosa fare questa sera. È arrivato, ce ne parlate da 2 mesi, da 1 mese, se avete deciso bene, altrimenti... Fate la prima cosa che vi capita. 349-238-6666. Oggi però parliamo di una cosa che più che con l'ultimo giorno dell'anno ha a che fare con il primo giorno della nostra vita, il giorno in cui siamo nati, il giorno in cui io personalmente vorrei tanto sapere che cosa è accaduto, ma di fatto quello che sappiamo arriva per terza o quarta voce da mamme, nonne, nonni o fratelli che erano presenti come noi, ma semplicemente ne avevano memoria. 349-238-6666 è il numero per mandare i vostri sms, anche oggi, anche il 31 di dicembre, altrimenti anche oggi il profilo Facebook di questo programma e voi siete qui, Radio 24. Giulio scrive: sono nato il giorno più caldo dell'anno, o così tutti dicono in casa mia. Era il luglio dell'81. Mio padre, che era fuori ad aspettare per la tensione e il caldo, beve 3 birre a stomaco vuoto, anche se il nonno dice che erano 6, e quando lo chiamarono per entrare era completamente ubriaco. E invece Ludovico mi ha scritto: sono nato il giorno in cui l'uomo è sbarcato sulla luna, perché appunto poi qualcuno ha, diciamo, la fortuna o la casualità di nascere in giorni particolari, in alcune ricorrenze, e di solito quindi quando si nasce in quei giorni lì si ha tutti i ricordi, hanno a che fare con quel periodo lì. Invece se si nasce un giorno qualunque, 22 di novembre, di solito succede di meno, anche se sicuramente è successo qualcosa il 22 di novembre. Ludovico: sono nato il giorno in cui l'uomo è sbarcato sulla luna. Mia madre giura di avere sentito una televisione accesa in sala parto che un secondo dopo la mia nascita diceva con l'inconfondibile voce di Tito Stagno: ha toccato, ha toccato. Questo però, guarda Ludovico, con tutto che io ci credo a questa cosa, però spesso quando i racconti arrivano, passano di bocca in bocca, e quando soprattutto hanno trascorso anni per arrivarci, spesso sono un po' romanzati, no? Anche se non è male immaginarcelo così. Giovanni: mia nonna dice sempre che non volevo nascere, ero in ritardo di 10 giorni e mi aspettavano come il bambin Gesù, così dice lei, lo dicono un po' tutte le nonne. Poi una mattina mia mamma si è alzata e ha detto: oggi nasce. Dopo 6 ore ero fuori. 349-238-6666. Quello che vi ricordate, o che più verosimilmente vi hanno detto a proposito del giorno della vostra nascita. E tutto perché? Tutto perché Anna Maria, un bel po' di anni fa, nasceva esattamente oggi. Era quasi l'alba, quel venerdì mattina del 31 di dicembre. Naturalmente faceva un gran freddo. Per fortuna però non aveva nevicato. Io ero quasi arrivata, ormai. Mancava veramente poco. Ancora qualche minuto e quell'attesa durata parecchi mesi sarebbe finita. Ogni 31 dicembre, che poi è il mio compleanno, non faccio nulla di particolare. Non riesco mai a fare nulla di particolare perché non è facile compiere gli anni in questo giorno. Non sapevo nulla di quel posto. In realtà non sapevo nulla di tutto quello e di tutti quelli che mi aspettavano. Da lontano cominciai a sentire delle voci, ma non ne riconoscevo nessuna, né tantomeno capivo quello che dicevano. No, anzi, forse una la riconoscevo, quella della donna che sembrava stare male. La sentivo lamentarsi e sentivo la voce di un'altra donna che la incoraggiava ad andare avanti, che presto sarebbe tutto finito. In fondo lo sapeva, c'era già passata altre volte. Nella stanza a fianco un uomo dallo sguardo buono aspettava di avere notizie. Non sapevo cosa stesse facendo. Forse non avrei dovuto essere lì in quel momento, ma ormai era inevitabile. Dovevo farmi forza e farmi strada tra quelle voci, e so che ad un certo punto avrei anche dovuto strillare. E poi tutto accadde senza che quasi me ne accorgessi. Quando la vidi e mi ci trovai vicino, sentii che quella donna aveva un profumo buono. Aveva smesso di lamentarsi. Sembrava non soffrisse più. Mi guardava, io guardavo lei. Volevo chiederle se ero nel posto giusto, ma non avevo voce, non avevo parole per farlo. L'uomo dallo sguardo buono sedette vicino a noi e io capii che ero nel posto giusto, in quella famiglia fatta da padre, madre e 4 bambini che stavano aspettando proprio me. E da come sorridevano i bambini e da come mi guardava la loro mamma, sembravano anche tutti felici. Io ero stanca, affamata e avevo faticato tanto per arrivare. Ora però finalmente potevo riposarmi, potevo dormire e forse più tardi avrei anche mangiato. I primi flash che ho, le prime immagini che ho sono di questo salone grande nella vecchia casa dove abitavo, sempre con un grandissimo albero, perché ovviamente siamo sotto Natale, con mio papà e mia mamma, che erano un po' indaffarati perché capivo che era un giorno particolare. In realtà fra tutto c'era sempre una torta di compleanno per me. Erano le 6 del mattino del 31 di dicembre del 1965 e io finalmente, dopo 9 mesi, vedevo per la prima volta il viso della mamma e del mio papà. Mi chiamo Anna Maria e sono nata oggi, 47 anni fa, il giorno prima di Capodanno. Avete mai pensato al giorno della vostra nascita? Non parlo delle foto o dei racconti che vi hanno fatto, dico proprio se avete mai cercato di vederlo, di immaginarlo o addirittura di ricordarlo quel giorno. È una cosa assurda, lo so, perché i primi ricordi che abbiamo mi pare risalgano attorno ai 3 anni, mi pare, Sembrano però più dei sogni che dei ricordi. E invece no, invece sarebbe bello ricordarsi com'è il momento della propria nascita. Riuscire a sentire i rumori, gli odori e la luce che c'è di fuori, fuori dalla pancia della mamma. Mia mamma dice che l'ho fatta aspettare un giorno intero prima di nascere e che poi ha partorito proprio verso le 8 di sera. Io sono nato il 24 di luglio e non il 31 di dicembre come Anna Maria. La sua storia però mi piace molto proprio perché quello di sviluppare una specie di supermemoria, una memoria che ci permetta di riuscire a ricordare addirittura il giorno della nostra nascita, e quella è una cosa che mi ha sempre incuriosito. E se ci fosse un modo, che ne so, sotto ipnosi o con una pastiglia, per riuscire a tornare indietro fino a quel giorno là, io lo farei subito, lo farei adesso. Provateci, provate ad immaginare, di ricordare tutto, ma proprio tutto, della vostra vita. Dall'espressione di vostra madre quando vi ha visto per la prima volta, o le prime parole di vostro padre, ma anche le frasi, quelle che i genitori si dicono tra loro quando i figli sono piccoli, che sì, tanto non capiscono. Immaginate di ricordare la prima umiliazione, o la prima gioia vera, o la sensazione del latte materno che scende lungo la gola. Cosa si è pensato quando è arrivato un fratello più piccolo, o quando si è conosciuto quello più grande? Una supermemoria probabilmente spazzerebbe via tutte le regole freudiane sulla psicanalisi, sul subconscio e tutte quelle robe lì. Probabilmente però non ci permetterebbe di vivere mai completamente sereni. Se sapessimo tutto di noi, se ci ricordassimo tutto, forse non potremmo andare avanti. Andare oltre, no? Far finta di niente, far finta che in fondo noi non siamo così uguali all'idea che abbiamo di noi. Eppure, nonostante tutto, io i ricordi sulla mia nascita vorrei poterceli avere. Anche solo qualche suono, qualche immagine o un odore. La notte del mio compleanno di una decina di anni fa ho fatto un sogno molto particolare. Non è diventato un sogno ricorrente, ma è tornato più volte. È un sogno in cui io rivedo tutta la mia nascita. Sono su un tram, fermo nel centro di Milano. Di fronte a me una donna sta urlando, ma io non la sento. Ho la musica nelle orecchie e vedo solo la sua bocca aperta in un grido che deve essere fortissimo. Mi sfilo le cuffie e ora sì, ora la sento bene. Avrà una trentina d'anni, è minuta, ha i capelli corti neri e una pancia enorme. Tiene le gambe larghe e un paio di persone accanto a lei le stringono le mani, ma lei se ne frega e urla. Urla come non ho mai sentito urlare nessuno. Io sono paralizzato e la guardo. Guardo i suoi occhi chiari e arrossati. Piange, stringe e urla. Il signore di fianco a me chiama l'ambulanza, poi mi dice di spostarmi, di non stare lì. Ma io sono come ipnotizzato da questa donna che urla tutto il suo dolore. Arriva l'ambulanza, le persone scendono, io rimango in un angolo del tram a guardarla. Il medico dell'ambulanza si inginocchia davanti a lei e le grida qualcosa che non capisco e nemmeno lei, credo. Lei piange e mentre lo fa, improvvisamente la sua faccia diventa familiare. Ha 30 anni di meno, è più magra, ma è mia madre. E mentre il medico fa dondolare il bambino per i piedi, vedo che quel bambino sono io. E sono bagnato, è un gran freddo. E c'è luce, c'è rumore, e sono solo. Sono appena nato e ho paura. Well, I'm accustomed to a sweet bread. Or maybe I'm a dog who's lost his bread. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep through the night. So people say lies, lies, lies. But I say why? Why deny the obvious child? Why deny the obvious child? And I'm remembering a road sign. I'm remembering a girl when I was young. Said these songs are true, these days are ours, these tears are free. The cross is in the ballpark, the cross is in the ballpark. We had a lot of fun, had a lot of money. We had a little son we thought we'd call him Sonny. Sonny gets married and moves away. Sonny got a baby and lives to pay. Sonny gets sunnier day by day, by day, by day. Well, I've been waking up at sunrise. I've been following the light across my room. I watch the night proceed with my day. Some people say the sky is just the sky, but I say, why deny the obvious child? Why deny the obvious child? Mm-hmm. Sunny sits by his window and thinks to himself, how it's strange that some rooms are like cages. Sunny's yearbook from high school is down from the shelf, and he idly thumbs through the pages. Some have died, some have fled from themselves, or struggled from here to get there. Sunny wanders beyond his interior walls, runs his hands through his thinning brown hair. Well, I'm accustomed to a smoother eye, or maybe I'm a dog who's lost its pride. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep the night. Some people say a lie is just a lie, but I say the cross is in the ballpark. Why deny the obvious, child? 349-238-6666. Oggi è un giorno particolare, effettivamente, nel senso che il 31 di dicembre, l'ultimo dell'anno, è un giorno particolare in cui nascere. Ad Anna Maria è successo esattamente così. Però quando si nasce è sempre un giorno particolare per diversi motivi, perché è una ricorrenza o semplicemente perché qualcuno ti ricorda, come nel caso di Giampiero, che ha scritto al 349-238-6666: sono nato a Settimino e il medico, quando sono uscito, pare abbia detto: chissà cos'era tutta sta fretta per arrivare in questo postaccio. Queste sono in realtà le informazioni che ti arrivano di seconda o terza mano, perché anch'io ho mia nonna che continua a ripetermi che un'infermiera, quando mi portarono fuori dalla sala parto, disse: tenetelo da conto che avete qui un tesoro. Io credo che quell'infermiera lo dicesse in serie a tutti i nonni o a tutte le mamme, ma tant'è, quello che ti viene detto ti rimane impresso nella testa. 349-238-6666. Ad Anna Maria non è stato detto, in sostanza, Anna Maria è proprio nata in un giorno particolare, che era questo. Pronto, Anna Maria? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Come stai? Benissimo, grazie. Beh, innanzitutto auguri, buon compleanno. Grazie. E soprattutto, che cosa fa una che compie gli anni il 31 di dicembre, il 31 di dicembre 2012? Oggi? Che cosa oggi, faccio oggi? Oggi, cosa farai oggi, questa sera? Cosa faccio oggi? Oggi, vabbè, c'è sempre un clima un po' strano in questo giorno. Io spero che quelli che mi chiamino per farmi gli auguri per il compleanno, ma in realtà non è mai così, perché qualcuno, anzi molti, non se lo ricordano. E farò bene o male quello che faccio tutti gli anni: è impossibile fare una festa di compleanno, non ne ho mai avuta una, e credo che andrò a cena fuori con il mio compagno, il mio fidanzato, che comunque si prodiga a sfidarmi, portarmi a cena fuori per festeggiare il compleanno, e quest'anno anche con mio figlio Gianluca. Senti, dove abiti tu, Anna Maria? Dove sei? Io abito a Monticelli Brusati, che è in Franciacorta, un po' collinare. La Franciacorta che non tutti ce la si ricorda in realtà per via del vino, dello spumante, no? Qual è la sì, specialità? Esatto, lo spumante, no? È la particolarità di questa zona, fanno uno spumante DOC che è buono, che è, cioè, è veramente buono, è buonissimo. Ma in realtà sì, la Franciacorta è un posto magnifico. Sì, veramente. È un luogo, perché devo dire, ma lo dico anche io che sono del nord-ovest, banalmente, non sono di Perugia come Tiziano Bonini, perdonami Bonini, di Foligno, però quando si pensa al nord-ovest o al nord in generale, no, si pensa che la parte bella dell'Italia sia, ed è anche vero in parte, al centro e al sud, però la Franciacorta, quando ci arrivi, la banalità che si dice sempre è: sembra di essere in Toscana, perché è collinare, ci sono questi filari di viti, di vigne magnifiche, quindi insomma, magari se non sapete cosa fare, andate in Franciacorta questa sera a festeggiare non il 31 ma il compleanno di Anna Maria, visto che compie, non ti chiedo quanti anni hai, però tu sei del 65, giusto? 65. Sei del 65, hai 10 anni secchi secchi più di me. Senti, Anna Maria, andiamo un attimo, sì, andiamo in quel giorno, chiaramente tutto quello, o per ognuno di noi purtroppo, nel senso che a me piacerebbe tanto immaginare, ci provo sempre a cercare di ricordare come è stato quel giorno lì, è impossibile, ma di fatto i ricordi della nostra nascita arrivano dalle persone che c'erano accanto a noi. Chi è che ti ha raccontato le cose più importanti di quel giorno? Tua mamma, tuo papà, i nonni? Ma le cose più importanti di quel giorno me le ha raccontate mia zia, la sorella di mia mamma, da cui poi ho preso il nome. Io sono nata in casa, quindi quello che in effetti si vede, nasce dal mio racconto, è questo, perché io sono nata in casa, mia mamma aveva un'ostetrica che aveva già fatto nascere 4 figli precedenti, io sono la quinta di 6. Stiamo parlando quindi del 1965 e siamo a Catania, giusto? No, siamo in un piccolo paese in provincia di Enna, un paesino piccolissimo, molto freddo, molto alto, si chiama Gira. E io sono nata in questa casa veramente grandissima, anche perché essendo tanti figli, come me immaginerai, e mi hanno raccontato questa cosa, il fatto che fosse mattina presto, io sono nata alle 6 del mattino e che c'era mio papà naturalmente agitatissimo, nonostante ci fosse già passato 4 volte, e che io che non mi decidevo a nascere in realtà. Senti, fatto tribulare un po', ma è nascere il 30, cioè alla fine di un anno ti fa cadere in quell'anno lì o in quell'anno dopo? Cioè con la scuola come ti sei regolata? Con i compleanni? Con la scuola mi sono regolata e sono andata a scuola piccolissima, perché sono andata a scuola a 5 anni. A 5, cioè hai guadagnato un anno praticamente. Sì, ho guadagnato un anno. Sono anagraficamente sono registrata il giorno dopo per vari... Il primo? Davvero? No. Sì, sono registrata 1166, è tutta una storia. Ah, ma per quali motivo, sì. Scusami, motivi... Ma lo posso dire, ce lo devo dire? Ma non so, vedi tu, se non puoi no, però... Ma sì, perché era un giorno particolare, quindi mio papà, le feste, essendo nata in casa, non c'è che eri in ospedale, per cui venivi registrata immediatamente in ospedale. Diciamo che poi il papà doveva andare in comune a registrare la figlia, figura, okay. Il 31 dicembre, lui e mio zio ci avevano veramente... Ok, quindi, nata al 31 ma registrata il 1 di gennaio. Senti, Anna Maria, io ti ringrazio, semplicemente... Cosa in 30 secondi al volo, sì. Cosa è successo in questi 47 anni da quando sei nata? Come ci sei arrivata in Franciacorta? Cosa fai? Sono successe tantissime cose. Sono partita da Catania, che poi è la città dove sono cresciuta in realtà, nel 92, quindi adesso sono ben 20 anni, giusto? Sì. Sono venuta qui, ho iniziato a lavorare, ho iniziato a fare questo lavoro, sono un informatore scientifico del farmaco. Ah, che siete quelli che vanno in giro col trolley basso ed entrano, scusate, dal medico dicono sempre, scusate, sono qui per lavoro, e saltano davanti a tutti alla fila, giusto? No, assolutamente no, io non vado in giro col trolley basso, lavoro con la mia borsa che non è assolutamente sospettabile, che sia una borsa normalissima, non passo davanti a nessuno perché ci sono delle regole che sono messe dai medici, okay. E poi insomma ogni territorio ha le sue storie. Ok, e da quanto lo fai questo lavoro, quindi dicevi alla fine? Dal 92. Eh sì, quindi sono 20 anni, 21 con l'anno che viene. Anna Maria, io ti ringrazio moltissimo. Hai per caso, odio queste robe, ma sì. Hai, visto che tu ci sei nata in questo giorno, sì. Ed è un sì. Giorno particolare per tutti, tu ti fai in questo giorno qua, che è anche il giorno del tuo compleanno, dei pensieri per l'anno che viene, da domani, e si immagina buoni propositi, idee nuove? No. Assolutamente no. Quindi non l'hai mai fatta e non ce l'hai nemmeno per il 2013. No. Va bene, senti, io comunque ti ringrazio per la storia, ti auguro un buon compleanno innanzitutto e un sereno 2013. Grazie Matteo, anche a te. Anna Maria, ciao, grazie, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Tiziana mi scrive, quando sono nata dicono che c'è stato un blackout in tutta la città e di secondo nome faccio Nerina. Eh beh, quando è così è proprio sfiga, eh. Adesso la borsa, se c'è, se non c'è. Comunque, non c'è la borsa, perfetto. Quindi adesso un piccolo stacco pubblicitario e poi voi siete qui. Voi siete qui. Ad occhio e croce, Anna Maria, nella foto che ci ha mandato, che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, si trova in un antico borgo toscano. Oddio, potrebbe anche essere umbro, però perché ha il tipico aspetto del borgo del centro Italia, per cui c'è dei ciottoli per terra, ci sono salitine, c'è un muro in pietra, proprio quella bella grezza, e poi ci sono degli ulivi che nascono lì in qualche vaso, ma alle sue spalle si vede che c'è una bandiera che sembra la bandiera di una contrada, potrebbe essere Siena addirittura. Lei è seduta su un gradino, è stanchissima, c'ha la faccia di chi dice io non ci volevo venire qui, io volevo andare al mare oggi. È estate, fa caldo, ha i pantaloni corti e una camicetta bianca, però il dettaglio che si nota di Anna Maria è che è sì in tenuta turistica, ma su delle infradito coi brillantini e soprattutto le unghie dei piedi belle pitturate. Nascere. Verbo intransitivo. Cominciare ad avere vita autonoma, venire al mondo, alla luce, essere generato. Di vegetali, spuntare dal terreno, germogliare. Estensivo, uscire fuori, spuntare. Comparire o presentarsi all'improvviso. Figurato, avere origine, formarsi, costituirsi. Etimo, dal latino, nasci. Data, secolo XIII. Si parla di nascita, non so se l'avete capito esattamente nella puntata di oggi. Ultimo giorno dell'anno, non ultimo giorno della stagione di Radio 24 e soprattutto di Voi Siete Qui, che si conclude come di consueto. Come le stagioni radiofoniche funzionano come le scuole, più o meno. Di solito verso fine giugno finiscono e ricominciano a settembre. Quindi ultimo giorno dell'anno solare, ma non della stagione di questo programma. Lo dico perché, come spesso succede, nei giorni di festa, soprattutto per programmi come il nostro, che va in onda in un orario diciamo complicato, insomma, diciamo un orario di lavoro, nei giorni di festa come oggi accade che arrivino delle persone ad ascoltare questo programma che di solito non sentono perché semplicemente sono al lavoro, banalmente. Quindi non so dove si trovi Franco, che mi manda un messaggio dicendomi: bella questa roba che si raccontano le storie alla radio, come posso partecipare? Guarda, è molto semplice, Franco, mandi la tua storia, e per storia intendo un episodio della tua vita, cioè qualcosa che in qualche modo racconti di te. Magari non completamente, non per forza non una biografia, ma Franco, qualcosa che dica qualcosa di te, di chi sei, anche di una parte poco conosciuta o di una parte che tu vuoi tenere nascosta. La scrivi in una pagina e la mandi a voisietequi@radio24.it. L'importante è che sia proprio una piccola storia, un episodio, qualcosa che ti è accaduto realmente, che abbia un inizio, di solito funziona così, un inizio, uno sviluppo e una fine. E poi voi siete qui, @radio24.it. È arrivato un altro messaggio che dice, appunto, sento oggi per la prima volta, si possono ascoltare altre puntate? Sì, si possono, ovviamente esiste un podcast come tutti i programmi di questa radio, come tutti ormai i programmi radiofonici. Andate sul sito di Radio 24, nella sezione podcast, cercate Voi Siete Qui, e ci trovate tutti i podcast scaricabili delle ultime 5 puntate. Altrimenti online, cioè in streaming, potete ascoltarvi tutte le puntate di questa stagione. Se invece siete pigri e non avete voglia di andare sul sito a cercare, vi abbonate gratuitamente su iTunes al podcast di Voi Siete Qui e quel ve lo scarica automaticamente. Abbiamo fatto anche una bella parte dedicata alle operazioni di servizio per scaricare il programma, per ascoltarlo e per parteciparci. Torniamo invece alla storia di Anna Maria e alla storia di cosa ci ricordiamo della nostra nascita, che cosa ci hanno raccontato. Antonella scrive sul profilo Facebook: mia madre dice sempre che quel giorno pioveva così forte che avevano paura di non raggiungere l'ospedale in tempo, ma poi quando sono nata non piangevo e i medici hanno dovuto schiaffeggiarmi, perché so che è un problema, no, se i bambini non piangono di là, ma Aina e la corte lo sanno, perché non respirano, cioè perché il primo urlo è per respirare. Tutti nascituri dall'altra parte, tutti ostetrici, chi è? Ginecologi, no dai, quello che fa nascere, l'ostetrica, ok. Insomma, non piangeva Antonella, mi hanno dovuto schiaffeggiare e per farmi piangere e quindi respirare. E pare che un'infermiera abbia detto non voleva piangere perché c'era già troppa acqua oggi. Questa roba delle infermiere ormai è risaputo, eh? Non è vero che le robe che hanno detto. Le robe che vi dicono, che le infermiere hanno detto, non sono vere. Per forza sono inventate. Non posso credere che le infermiere dicano robe o così banali o così semplicemente fondamentali per la vita di ognuno di voi. Come diceva mia nonna, ve lo ripeto, tenetelo da conto che avete qui un tesoro. Chissà quanti sono in giro, nati più o meno nel mio periodo, all'ospedale di Novara, attorno agli anni 70, a cui viene raccontata questa storia. Tu pensa, l'infermiera, quando ci ha portato, ci ha detto, tenetelo da conto. Alfio, 349-238-6666, mio nonno, contadino siciliano, quando sono nato all'ospedale di Siracusa, 50 anni fa, portò pesche appena colte per tutto l'ospedale, dicendo, è l'unico modo in cui posso ripagarvi. Questa secondo me è una cosa che appartiene soprattutto alle persone molto anziane, quella del senso di grande rispetto e onorabilità della figura del medico, no? Il medico è qualcuno che in qualche modo devi ringraziare. Giulio, sono nato il giorno più caldo dell'anno, no, cosa l'abbiamo già letto. Serena, mia madre ha partorito da sola perché mio padre non mi ha mai riconosciuta. Quando sono venuta al mondo, suo fratello, cioè mio zio, ha fatto finta di essere il padre. perché lei si vergognava di non avere un marito, ma questo succedeva tanti tanti anni fa. Adesso però, visto che si è parlato di parto tutto il tempo, noi ci siamo detti, ma metti caso che ci fosse qualcuno, qualcuna direi, incinta da 9 mesi. Mi seguite? Metti caso che il bambino, che non sia pronta, perché il marito non è preparato, perché l'ospedale è troppo lontano, e metti caso che debba in questo momento far nascere un bambino. Che cosa facciamo? Come possiamo essere di servizio noi? Pronti via! Ascoltate bene, ok? Se state per partorire e se non sapete cosa fare, alzate bene il volume della radio. Vi leggo in pochissimi punti il manuale per far nascere un figlio. Il parto è il momento in cui la donna dà alla luce il figlio. Talvolta è preceduto dalla rottura delle acque ed ha un periodo più o meno lungo di doglie e di travaglio. Quando sopraggiungono le doglie, è necessario trasportare la partoriente in ospedale. Nel caso il bambino stia per nascere, in attesa dei soccorsi, bisogna innanzitutto tranquillizzare e rassicurare la madre. Stenderla distesa sulla schiena, con le gambe divaricate e le ginocchia piegate. È importante vincere ogni imbarazzo e togliere gli indumenti intimi, per evitare di non accorgersi che il figlio sta per nascere, o peggio, che gli indumenti ne ostruiscano l'uscita. Poiché il parto comporta grandi dispersioni di liquidi, è consigliabile porre, sotto le natiche della partoriente, dei panni possibilmente puliti. Quando avviene la spinta espulsiva, la donna deve ispirare profondamente e, trattenendo il respiro, spingere contraendo gli addominali. Quando il bambino compare, bisogna invitarla a respirare profondamente. Il soccorritore non deve cercare di estrarre il feto né comprimere l'addome della madre, limitandosi a sorreggere il capo e poi il corpo del nascituro. Durante il parto bisogna prestare attenzione sia alla madre sia al figlio. È bene fare attenzione che il cordone ombelicale non si attorcigli intorno al collo del bambino con rischio di soffocarlo. Quando il bambino è nato, va coricato tra le cosce della madre e, se la bocca è ostruita, va pulita delicatamente con una garza. Se il bambino non respira, si può battere delicatamente con le mani sui piedini. Questa manovra, per riflesso, stimola la respirazione. Se entro 10-15 minuti i soccorritori non intervengono, è necessario tagliare il cordone ombelicale. Operazione questa legalmente spetterebbe al medico, però per fare ciò è bene effettuare 2 legature con del filo molto resistente a circa 20 cm dall'ombelico del neonato e poi tagliare tra le 2 legature con delle forbici. Attenzione! È possibile imbattersi anche in un parto gemellare. Il soccorritore non deve lasciarsi prendere alla sprovvista. È sufficiente che ripeta tutte le operazioni di intervento anche per il secondo figlio. Light years before heavy drinking, she tried to teach me how to sit cross-legged underneath the table. But I could be pleasingly shiny, not teasing her with shyness. Not sat with the skeletons at the bar. And I could draw a perfect line. Half this town call me Caroline. Say, baby, what is yours is mine. She never speaks to me. It wasn't like this at the wedding. Light years before heavy drinking, she tried to teach me how to sit cross-legged underneath the table. But I could be pleasingly shiny, not teasing her with shyness. Not sat with the skeletons at the bar. Half this town call me Caroline. lady, what is yours is mine. Io non lo so se c'è qualcuno che diciamo userà o ha usato i consigli del manuale su come far nascere un figlio adesso in questi minuti, o magari lo farà stanotte o domani, però ecco, ci piacerebbe tanto, se così fosse, che vostro figlio o vostra figlia la chiamaste, non dico come primo nome, ma come secondo magari, voi siete qui, no, voi, tipo Maria voi, no, da Radio 24. Tipo Giovanni, no, forse Radio 24 è un po' troppo. 24, solo 24, Giovanni 24. Che schifo. 349-238-6666. Giuliano, questo è il migliore di tutti. Perché io me lo vedo, perché me lo vedo questo pezzo di vita. Mio padre era un giovanissimo attore in erba all'epoca della mia nascita e mia madre dice che per l'euforia recitò a tutto il piano dell'ospedale il primo canto del Paradiso di Dante appena nacqui. Ora mio padre è in pensione e da 40 anni, per 40 anni ha fatto l'agente di commercio. Visto che oggi è l'ultimo giorno dell'anno e non della stagione, io vorrei comunque ringraziare tutte le persone che fanno questo programma. Pietro La Corte, che oggi l'ha gestito di là dal vetro. In particolar modo però Margherita Ina, che mi dice sostanzialmente che quando è nato suo fratello, suo padre è mancato perché sono nati esattamente alle 13, lui ha detto vado un attimo a prendermi un panino, che una volta va bene, ma in tutti e due i casi. Se non fosse per lei questo programma non sarebbe così, noi ogni tanto ci stupiamo di come faccia a tenere insieme tutto e quindi oggi è il momento giusto per ringraziarla. Ringrazio però anche Tiziano Bonini che fa questo programma insieme a me e Stefano D'Andrea e Mauro Pescio che lo scrivono insieme a me. Finisce quest'anno e Paolino anche, giustamente mi suggerisce Pietro. È vero, Paolino, diciamo, perché è sempre presente, però in qualità di tecnico della radio oggi ringraziamo te, quindi Paolino direi buon anno. Grazie a voi che continuate a mandare i racconti e grazie a voi se li manderete. Vi auguro di finire bene quest'anno e di iniziarlo meglio, direi, domani. La storia di oggi era la storia di Anna Maria e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono ancora io, sono Matteo, sono il conduttore di questo programma. Domani ci prendiamo un po' di vacanza, quindi non facciamo una sola storia, facciamo il meglio di tutte le storie che sono andate in onda nel 2012. Questa è la nostra storia e noi siamo qui.